si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua dalla Fiera del Levante di Bari, che oggi ci ospita. Una giornata di sole meravigliosa, tanta gente in giro per i padiglioni della Fiera di Bari, ed è una bella notizia perché vuol dire che le cose girano, speriamo. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta anche oggi. Pedonalizzazione, oggi vogliamo tornare a parlare di questo perché è clamoroso. Sembra che a Roma si delinei un accordo, vi ricordate la questione dei fori imperiali di cui si è parlato per mezza estate? Ebbene sì, tra la giunta e le associazioni dei commercianti, che come sapete spesso quando si sente parlare di strade chiuse al traffico gli si rizzano i capelli, perché temono che già in una situazione come questa di crisi il commercio ne risenta. E questa è la notizia da cui partiremo, ma di zone pedonali ce ne sono in tutta Italia. A Bari per esempio c'è via Argiro che sta risorgendo, noi ci crediamo in queste iniziative, c'è anche Firenze. Allora chiamateci all'800 24 00 24 per dirci se nella vostra città funziona, non funziona la zona pedonale, se vi piace, se non vi piace. E ricordiamo anche i contatti: si può fare @radio24 su Facebook, l'account su Twitter se volete seguirci in diretta è si può fare 24, il mio è @AleMaurizzi. Cominciamo subito con qualche notizia della settimana. Allora, la prima notizia riguarda la Sicilia, la legalità, perché c'è una buonissima notizia. Il leader di Confindustria denuncia gli estorsori, scattano 3 arresti nel Trapanese. Il protagonista di questa storia è Gregorio Bongiorno, presidente dell'Associazione degli Imprenditori Pagava il Pizzo dal 2005, e ha mandato agli arresti 3 uomini della cosca di Castellammare del Golfo. Prosegue dunque anche attraverso la storia personale di questi imprenditori l'azione di Confindustria e delle associazioni antiracket contro la mafia, per la legalità, un tema importantissimo anche per far girare l'economia quella pulita. Però molti hanno paura di denunciare, naturalmente è normale, però queste storie, questi esempi ci danno un grande incoraggiamento. Una notizia più leggera viene da Milano. Si sta per chiudere Mito, il festival musicale che si svolge appunto, come si capisce dal nome, tra Milano e Torino. Ebbene, una serie di concerti, tra cui quello di Stravinsky, sono stati alimentati grazie alla forza motrice umana, alle pedalate degli spettatori che prima e forse anche durante il concerto si sono messi lì a pedalare su delle biciclette messe a disposizione per generare energia. Un'iniziativa, un'idea che sta andando avanti sempre di più, chissà se potrà diventare qualche cosa di più, come ci suggerisce per esempio un ascoltatore, continuate a scriverci, Gianfranco, un bancario di Pavia, che immagina dei capannoni pieni di disoccupati che pedalano su delle biciclette che con delle dinamo producono energia. Allora, non lo so se potrà funzionare o se potrebbe funzionare, è suggestiva come idea, certo poi bisognerà comprare delle casse di Gatorade per ridare energia ai poveri pedalatori. Non so se il gioco vale la candela, però questa era l'idea di Gianfranco da Pavia. Continuate a scriverci anche alla mail, si può fare @radio24.it per suggerirci le vostre buone pratiche, le vostre belle iniziative. Adesso andiamo a iniziare e andiamo a Roma, torniamo a parlare della mandria, di tutte le pedonalizzazioni. Ricorderete quest'estate il tema dei fori imperiali chiusi dal sindaco Ignazio Marino, le polemiche dei commercianti, sarà un disastro, no? Scopriamo un'area archeologica più bella del mondo, ma questa cosa qua succede in tante città italiane, in tutte forse. È un paradigma quello che ha sollevato il sindaco di Roma, Marino. Sembrava che si andasse verso una rottura, perché erano previsti anche scioperi dei commercianti. C'è stato un incontro qualche giorno fa con diverse associazioni dei commercianti. Noi ne vogliamo parlare con Lorenzo Tagliavanti, direttore della CNA di Roma. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, le cronache romane dicono che questo incontro, un po' sotto traccia, perché ad agosto se ne è parlato molto, poi naturalmente si comincia a discutere e è sceso un po' all'attenzione nazionale, però tutti col fiato sospeso. L'incontro però non è andato malissimo e voi siete stati possibilisti, ci si può lavorare su questi fori imperiali chiusi al traffico. Tagliavanti. Guardi, allora, se noi parliamo di pedonalizzazione, sembra che si toglie qualcosa ai romani, la possibilità di non passare in una strada. In realtà non dobbiamo parlare di pedonalizzazione, dobbiamo parlare di valorizzazione della più grande area archeologica del mondo. Quando una città crea valore per tutti. Allora questa è stata un po' l'impostazione nuova di quell'incontro, va a dire non togliere ma dare alla città un'opportunità. Del resto Roma da questo punto di vista ha un vantaggio straordinario, nessuna città come Roma può legittimamente valorizzare la sua area centrale anche in termini economici, pensiamo al turismo, al recupero, al restauro, quindi diciamo è una grande risorsa. Quindi insomma l'impostazione mi sembra possibilista, adesso poi cercheremo di capire come e perché, tra l'altro qualcuno ha detto ma è stato Marino, il sindaco di Roma, ha voluto piantare subito la bandierina a favore dei ciclisti con questa cosa dei fori imperiali, ma bisognava studiarla di più, però siccome, perché sono anni e anni che se ne parla, però proprio perché sono anni e anni che se ne parla forse ci voleva anche una scossa. Adesso però ci fermiamo per un breve pausa per il traffico, poi torniamo a parlare dei fori romani, dei fori imperiali pedonalizzati e del possibile accordo che si delinea con i commercianti della città. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. 800 24 0024, numero verde per intervenire in diretta. Vi chiediamo oggi, cari ascoltatori, anche criticamente di dirci come sta andando nelle vostre città, nelle zone chiuse al traffico, nelle zone pedonali, se si può fare questa cosa qua. Noi ci crediamo perché, insomma, pedali, pedoni, pendolari e la nuova mobilità, sicuramente meno macchine, fa bene a tutti. Però ci sono delle difficoltà da superare, questo sempre. Siamo a Roma, stiamo parlando della zona dei fori imperiali, che, come ricorderete, il sindaco Marino, poco tempo dalla sua elezione, ha voluto subito chiudere alle automobili. Qualcuno ha detto è andato troppo di corsa, bisognava aspettare, ma se sono quasi 100 anni, lo chiedo a lei, Lorenzo Tagliavanti, direttore della CNA di Roma, che rappresenta i commercianti e gli artigiani, cosa si doveva aspettare ancora? Non si doveva aspettare perché arriviamo a questa valorizzazione in grave ritardo, probabilmente c'è stato un deficit di informazione da parte del sindaco, poteva fare alcuni incontri prima con le parti interessate, però diciamo noi siamo d'accordo sull'obiettivo generale. Per quanto riguarda avvicinarsi a questo obiettivo ovviamente ci vuole un po' di metodo, è chiaro che in alcune strade e in alcuni quartieri limitrofi a quest'area si stanno creando dei problemi. Però via via che si creano bisogna trovare quei luoghi dove poter risolvere o attenuare gli effetti negativi e valorizzare quelli positivi. Da questo punto di vista c'è disponibilità da parte dell'amministrazione e c'è ovviamente anche disponibilità da parte delle associazioni, degli artigiani e dei commercianti. Voi avete fatto anche delle proposte concrete come quella del centro commerciale naturale, cioè di valorizzare anche dal vostro punto di vista, cioè di chi rappresenta le attività commerciali, i negozi, le attività artigianali in quella zona lì, cioè non solo paesaggio archeologico, non solo beni archeologici ma dell'altro. Che cosa avete proposto alla Giunta e magari si riuscirà anche a farlo? Guardi, l'unica città paragonabile a Roma è Parigi. Parigi ha avuto lo stesso problema, a un certo punto si è trovata impoverita dal punto di vista di attività artigiane, di attività commerciali, di qualità nel centro storico e quindi ha fatto una politica per la reintroduzione e la riqualificazione, perché è chiaro in un'area archeologica così bella anche le attività devono essere attività di tipo particolare, all'altezza del luogo. Le attività così di prossimità e di vicinato possono essere un ulteriore arricchimento ed è proprio su questo che stiamo parlando con l'amministrazione. Attraverso quali strumenti immaginate, cioè di poter aprire nuove attività, riutilizzare spazi abbandonati, che cosa? Ecco appunto, uno dei problemi dell'impoverimento della qualità artigiana e commerciale del centro storico è proprio il problema degli affitti. Perché sono troppo cari e i commercianti non ce la fanno. Allora la possibilità, ad esempio nel centro storico di Roma, molti degli edifici sono di proprietà di pubblici oppure di grandi enti bancari oppure di grandi enti religiosi. È possibile con queste strutture fare un patto per poter reintrodurre queste attività di qualità e al servizio anche del turismo di qualità. Vede, a Roma in questo momento chi passeggia per Roma vede anche la vendita per turisti di bassissima qualità. Questo in un certo senso ferisce la stessa immagine della nostra città. Teniamo conto che noi siamo il paese del Made in Italy. Noi siamo, guardi Tagliavanti, noi siamo a Bari, alla Fiera del Levante, c'è un stand grosso, non per fare la pubblicità, di Italy, il nuovo diciamo negozio che promuove i prodotti dell'alimentare, insomma del Made in Italy, dell'agroalimentare, ma tutto, dai prosciutti alle cioccolate, ai succhi di frutta. Chissà che immaginare un Italy a fianco ai Fori Imperiali, è una pazzia assoluta, forse no, o qualcos'altro del genere, insomma. Attraverso le botteghe artigiane commerciali, va a dire lì ci deve essere l'eccellenza. Vede, i Fori Imperiali non sono dei romani, non sono neanche degli italiani, va a dire, è un patrimonio dell'umanità, quindi non è un caso che lì a vederli, a studiarli, ad ammirarli vengono da tutto il mondo e chiunque viene lì si sente, diciamo, quel patrimonio suo. Noi dobbiamo cogliere questa occasione di grande attrazione per mettere in vista il Made in Italy. Il centro comunque storico. Insomma, l'importante è che ci si può lavorare, questo mi sembra il senso. Tra l'altro voi, certo, rappresentanti delle attività commerciali, dei commercianti, degli artigiani, siete un po' la sentinella anche a volte degli istinti degli italiani, della pancia degli italiani, perché forse perché ci siete a contatto, forse perché vi perché muove. Sono i nostri clienti. Esatto, sono i vostri clienti e quindi siete un po' questa campanella, questa lampadina che si accende, però il fatto che si sia accesa positivamente questa volta, almeno da parte vostra, forse le altre associazioni dei commercianti erano un po' più critiche, però si può fare, insomma, con un po' di fiducia. Voi lo volete accompagnare questo percorso di valorizzazione dei Fori Imperiali, questo è il messaggio con cui ci possiamo lasciare? Assolutamente. Va bene. Grazie. Allora, buon lavoro, in bocca al lupo per Roma e per tutto. Grazie al direttore della CNA di Roma. Adesso invece andiamo da tutt'altra parte, perché andremo in un piccolo comune lombardo che ha avuto una buona idea per aumentare la raccolta differenziata. 18th letter in the alphabet is R. Yeah. We got three R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Where's that thing? It's a magic number. Sacchetti della spazzatura speciale dotati di una tecnologia con un microchip, una tecnologia chiamata Radio Frequency Identification, per aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti. Siamo a Lissone in Lombardia e allora chiediamolo, abbiamo convocato a Giovanni Angioletti, assessore all'ecologia del comune di Lissone, di cosa si tratta. Buongiorno assessore, prima di tutto. Buongiorno, grazie per benvenuto. L'invito. E partiamo da questa sperimentazione che facciamo a Lissone, sì, cercando di inquadrare che tipo di comune è Lissone. È un comune della fascia, diciamo, di Milano. Sì. Quanti abitanti ci sono a Lissone, assessore? Vicino all'autodromo. Quanti abitanti ci sono a Lissone, assessore? Ecco, abbiamo circa 45.000 abitanti. Quindi insomma, una cittadina media, non proprio piccolissima. E quindi voi avete già un buon livello di raccolta differenziata, siamo circa al 60%, quindi siete già abbastanza bravi. Esattamente, noi siamo al 60%, cui buona parte è rifiuto industriale, uh-huh, che supera o si avvicina al 65%, quello domestico un pochettino meno, 57-58%, però la media si avvicina al 60%. Siete bravi, ma volete fare di più e avete appunto pensato questa cosa qua. Di cosa appunto si tratta? Una sperimentazione, tra l'altro diciamolo perché deve ancora entrare poi nel vivo. Esatto, si tratta di una sperimentazione che partirà all'inizio ottobre e l'idea è stata questa, diciamo discussa con Gelsia che è il nostro operatore. Per poter differenziare di più, perché l'obiettivo nostro è quello di andare verso una raccolta differenziata sempre più spinta, sì, andiamo a vedere nel sacco, che noi, per noi è il sacco grigio, dove si raccoglie l'indifferenziata, sì, cosa c'è. Siamo riusciti a capire che circa il 40-45% di quello che va nel sacco grigio è in realtà differenziabile. Cioè potrebbe andare negli altri sacchetti dove c'è la plastica, la carta, il vetro, eccetera. Quindi è chiaro, volete ridurre questo inutile spreco. E avete pensato a questa cosa, ce la vuole raccontare come funziona tecnicamente proprio? Anche perché poi al termine di tutto questo c'è una bella cosa per i cittadini di Lissone, cioè la possibilità forse di risparmiare. Più si ricicla, meno si butta e più si risparmia. Però questo attraverso il controllo che volete fare voi. Esattamente, per cui diciamo la prima cosa è la tecnologia ci viene in aiuto per questa sperimentazione, perché oggi attraverso questa tecnologia, diciamo questo microchip che viene messo sul sacchetto, è possibile quando il sacchetto viene messo sull'automezzo di raccolta conteggiarlo. Sì. E c'è un abbinamento automatico tra questo sacchetto e l'utente che lo conferisce. Per cui noi siamo in grado di contare quanti sono i conferimenti nell'arco di un periodo. Per cui la nostra sperimentazione vuol partire a ottobre e per 3 mesi noi andremo a monitorare questo aspetto. Per cui ecco, però poi alla fine, Assessore, ci rincuori su questo, perché gli articoli diciamo, che abbiamo letto della cronaca locale dicevano che al termine di questo percorso l'ambizione vostra è quella di far risparmiare i cittadini più virtuosi, cioè usare questa parola magica dell'incentivo fiscale, naturalmente service tax permettendo, la nuova tassa che il governo sta studiando sulle case e sui rifiuti. Però c'è questa vostra intenzione, no? Esatto, l'intenzione è questa. Diciamo che all'interno della filosofia rifiuto zero, che è quella di dire vado a ridurre il rifiuto il più possibile tendendo a zero, per cui voglio riciclare il più possibile, per cui all'interno di questa filosofia c'è anche una retribuzione, cioè volere retribuire positivamente chi ha dei comportamenti virtuosi. Per cui il cittadino, è importante che i cittadini collaborino molto a questa iniziativa, che viene sensibilizzato di più e capisce quanto può spostare sulla raccolta differenziata, per cui mandando all'indifferenziato il meno possibile, deve essere premiato. Per cui l'idea è di andare a una tariffa puntuale che è legata proprio al numero di sacchi che vengono consegnati durante l'anno di tipo indifferenziato. Insomma, a questo punto, sì. Prego, a questo punto la sperimentazione ci aiuterà anche a capire non solo l'aspetto diciamo ecologico, ma anche l'aspetto contributivo. Economico, mi raccomando, perché questa parte qua interessa tutti naturalmente, cioè tutti vogliono contribuire a un ambiente più pulito, però se gli diamo una mano con l'incentivo economico è chiaro che questa cosa qua funziona. Tra l'altro potrebbe diventare la parola magica, incentivo, un po' a tutti i livelli, le regioni coi comuni, lo Stato con le regioni, sempre per esempio sul tema dei rifiuti. Grazie Assessore, in bocca al lupo per l'iniziativa di Lissone. Avete sentito? Meno butti e più risparmi, anche se è una sperimentazione, ancora deve entrare nel vivo, ci vorrà qualche mese, però è una bella idea questa cosa che vogliono fare a Lissone. Chissà se qualche assessore di qualche città, assessore all'ambiente ci sta ascoltando, gli è venuta voglia di rifarlo anche lì. 800 24 00 24, facciamo una pausa, torniamo tra poco, vi chiediamo oggi però di raccontarci le esperienze delle zone pedonali delle vostre città, a partire dalla madre di tutte le pedonalizzazioni, quella dei Fori Imperiali di Roma, cui abbiamo parlato poco fa. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, tra poco sentiamo anche qualche intervento, leggiamo anche gli sms. A noi ci piacciono le zone pedonali, pedali, pedoni, pendolari, è la nuova mobilità, fa bene a tutti, si riscoprono le città, è una cosa meravigliosa, sì, però ci sono sempre da superare delle difficoltà. E allora leggiamo un po' di messaggi. Dunque, Appoggio Rusco, Mantova, ci scrivono al 349-238-6666, scandaloso, nemmeno un metro di area pedonale, lo dica, e noi lo diciamo. Poi la sua campagna elettorale per il sindaco di Roma rasenta, è ridicolo. Gigi ci scrive: ma no, ma quale campagna elettorale? Ci interessa il tema, la questione della zona riscoperta, i beni archeologici, il turismo, eccetera, eccetera. Poi c'è chi ci scrive: non capisco la polemica dei negozianti, gli spazi pedonali arricchiscono una zona, la gente si ritrova, passeggia, si rilassa e magari compra pure, dice Tina. Certo, infatti è così. A Treviso, poi saltando di palo in frasca, siamo al 90% circa di raccolta differenziata, ci scrive Alberto. E poi altri ascoltatori, Fabrizio da Pesaro dice: il vero passo è ridurre i rifiuti partendo dall'acquisto consapevole, coinvolgere tutta la filiera, non solo differenziare. Grazie a chi ci ha scritto. Adesso sentiamo invece qualche intervento al numero verde. Cominciamo con Mario, che ci chiama proprio da Roma. Buongiorno Mario. Sì, buongiorno signor Maurizio, buongiorno. Eccolo qua, coinvolto proprio in pieno. Lei dove abita? Sono il classico lavoratore pendolare che lavora nel pieno, insomma, del centro storico nella città politica. E che ne pensa di questa situazione? Guardi, io francamente voglio smentire nella maniera più categorica questa paventata pedonalizzazione del Colosseo. Le spiego, mi perdoni, c'è un ritorno. Cioè, a me francamente parlare di pedonalizzazione allo stato attuale dei fori imperiali mi sembra esagerato. Perché la pedonalizzazione effettiva si fa soltanto la domenica con l'ausilio dei vigili urbani, in particolare del primo gruppo. Pertanto, cosa ha pedonalizzato? Ha messo due segnali con il 30 all'ora. Ma lei vorrebbe che fosse di più o di meno? Ma io sicuramente di più, però paventare che fosse la prima grande idea di Ignazio Marino Sellino, francamente mi sembra esagerato. Ma allora, paventare non è, mi scusi Mario, non è che paventiamo, Mario. Impopolare. Sì. Ci vorrebbe il coraggio di chiudere tutto il centro storico di Roma, non soltanto fori imperiali. Va bene, la sua è un'idea ancora più radicale, però sa che non è così, è così semplice. Pensi il casino che ha sollevato solo quello che lei dice, una mini pedonalizzazione della zona dei fori imperiali, ci sono state manifestazioni, minacce di serrate dei commercianti. Pensi cosa succedeva se faceva come diceva lei, Marino. Grazie. Alessandro invece da Macerata, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io voglio dire che noi siamo un gruppo di amici con le famiglie e i bambini, no? Sì. E non andiamo dove non ci sono centri pedonalizzati, perché ha detto una frase bellissima prima: rilassa, il centro pedonalizzato con i nostri figli è rilassante, poi non c'è lo smog, non c'è quella puzza, quel traffico, e quindi coglieremo l'occasione quando veniamo a Roma di andare fuori imperiali anche per questo motivo, quindi per questo c'è lo smog. Oggi lo smog, l'inquinamento per i nostri figli soprattutto è snervante ormai. Quello, va bene. Anzi, posso dire una cosa? Sì. L'associazione, io sono anche associato all'associazione Medici per l'Ambiente. I problemi asmatici che hanno i bambini oggi è dovuto allo smog delle auto. È uno dei problemi, certo, infatti è di questo che stiamo parlando. Allora, mi fanno cenni dalla regia, forse grazie intanto agli ascoltatori 800 24 00 24. Tra poco cominciamo a risentire anche i vostri interventi. Adesso possiamo raccontare un'altra storia. Abbiamo sentito un comune della Lombardia, Lissone, che sta studiando sulla base di una buona idea un metodo per aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti, un problemino che abbiamo un po' tutti da tutte le parti. Da una buona idea andiamo in un posto dove addirittura c'è una scuola di buone idee per amministratori. Posso dirmi vivo? Affogando per respirare, imparando anche a sanguinare nel giorno che sfugge il tempo reale, sei tu a difendermi e farmi male. La scuola di altra amministrazione è un'iniziativa dell'associazione Comuni Virtuosi, già, perché ci sono anche comuni virtuosi, è una pagella che se la danno da soli. Adesso poi faremo il punto anche su questo, però state sicuri che ci sono tante belle iniziative, tante belle cose che vengono fatte in questi comuni. Sono Marco Boschini, coordinatore dell'associazione Comuni Virtuosi, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Marco, ben ritrovato. Quanti siete adesso i comuni virtuosi? Perché state crescendo, è una cosa, un'onda che monta. Sì, siamo 73, un'onda lenta ma costante, diciamo. I comuni virtuosi, dicevo io scherzando, una pagella che vi date da soli, però ci sono dei criteri, i vostri sono 5 criteri se non ricordo male, e poi fate ogni anno incontri e occasione anche come questa della scuola, nella quale poi parleremo, e diffondete le vostre buone pratiche. Intanto, quali sono i criteri per essere un comune virtuoso? Ma noi abbiamo scelto 5 linee di indirizzo che sono la gestione del territorio, l'impronta ecologica della macchina comunale, i rifiuti, la mobilità e i nuovi stili di vita, che guarda caso sono quelle cose che riguardano un po' la vita di tutte le comunità di qualunque dimensione. Per ognuna di esse abbiamo definito dei livelli minimi di raggiungimento di obiettivo, e nel momento in cui un comune ci chiede di entrare valutiamo queste cose e se l'esito è positivo entrano a far parte del nostro gruppo, che ha come obiettivo quello di contaminarsi reciprocamente, cioè far girare le buone idee, che in questo paese fanno sempre fatica a trovare gambe e cuori. Che è l'obiettivo anche del programma, di Si può fare. Infatti noi 2 su 5 di queste cose che tu hai citato, ne abbiamo parlato prima, la mobilità, abbiamo parlato dei fori imperiali e delle zone pedonali in Italia, e poi anche dei rifiuti con l'iniziativa di Lissone, meno butti più risparmio, almeno questa è la promessa di questo comune lombardo. Senti Marco, come funziona però la scuola? Dicevi contaminazione di queste pratiche, quindi ognuno insegna all'altro quello che è riuscito a fare, le difficoltà che è riuscito a risolvere, la burocrazia che è riuscito ad aggirare, i soldi che è riuscito a risparmiare nella bolletta energetica, tante cose. Come vi organizzate? Intanto l'appuntamento è a Como. Sì, a Como il 28 di settembre, al chiostro di Sant'Abbondio. Tutto il programma e le modalità per iscriversi sono sul sito ufficiale della scuola, che è www.altraamministrazione.it, e il taglio della scuola è un taglio molto pratico, molto concreto, cioè si fa teoria evidentemente, ma si fa soprattutto molta pratica, cioè i docenti sono amministratori, sindaci, assessori, consiglieri comunali, che raccontano e cercano di trasferire conoscenza ad altrettanti amministratori, ma anche semplici cittadini che si stanno per candidare magari alle prossime elezioni comunali, e portano la loro esperienza diretta, i loro progetti concreti che hanno già fatto, quindi che hanno già sperimentato, e li mettono a disposizione di persone che vogliono fare altrettanto nel proprio comune e nella propria comunità. Ecco, Marco, quali vogliamo fare qualche esempio di alcune di queste buone pratiche di cui parlerete proprio in questa edizione qua della scuola, sì, di Altra Amministrazione Como? Allora, inizieremo con un progetto che ha un respiro nazionale, è un'iniziativa che l'Associazione Comuni Virtuosi ha portato avanti nei mesi scorsi con l'ufficio tecnico di Velux Italia, e che sono delle linee guida per favorire l'utilizzo della luce naturale nelle nuove istituzioni e soprattutto nelle ristrutturazioni. Credo un'iniziativa molto concreta e speriamo che molti comuni la adottino nei regolamenti urbanistici, perché è a costo zero. È una delle tante iniziative che abbiamo sperimentato in questi anni. Molto spesso si richiedono interventi faraonici, si pensa che dietro l'ambiente ci siano investimenti molto, sì, consistenti da un punto di vista economico, a volte si dimostra che invece si può fare tutto anche a costo zero. Intanto sta iniziando la messa lì vicino a te, probabilmente esatto, sentiamo le campane, dove ti trovi? Poi racconteremo l'esperienza, ecco, del comune di Desio, in provincia, sì, di Milano, che da anni sta lavorando a un piano regolatore a crescita zero, addirittura che sta cercando di declassificare tutta una serie di aree precedentemente immaginate come espansione urbanistica in un contesto, l'abbiamo visto molto spesso in questo paese, in cui non c'è bisogno di fare nuove colate di cemento, ma c'è bisogno semmai di riqualificare e di recuperare l'esistente. Parleremo, senti, sì? Sì, dimmi. No, so che avete di Monte, prego, San, prego, Pietro, Marco, in provincia di Bologna, sui, sì, rifiuti, il porta a porta. Parleremo di Busseto, questo comune in provincia di Parma che sta approntando una variante urbanistica utilizzando il percorso della partecipazione, che è l'altro elemento cardine un po' di tutte le nostre storie. Un po' come, cioè, come è avvenuta a Capannori, ne abbiamo parlato anche noi. Sì. Senti Marco, un'altra cosa che volevo chiederti è questa. So che voi avete a cuore un tema che è quello un po' tecnico, però magari se riesci a dircelo, tu sei bravo in un minuto, quello della convenzione tra i comuni italiani e il CONAI per la questione degli imballaggi. Prima di tutto ci vuoi dire, ricordare cos'è il CONAI, che ruolo ha? Il CONAI è quel soggetto che gestisce tutta la partita degli imballaggi a valle delle raccolte che vengono fatte a livello comunale, cioè tutto quello che sono i rifiuti riciclabili che vengono raccolti dal proprio comune o dalla propria società municipalizzata, sì, vanno a finire in un contesto che è regolato dal CONAI per tutto quello che riguarda l'utilizzo successivo. E voi dite però che c'è qualcosa che non va in questa convenzione, che è troppo a sfavore dei comuni. Esatto, tu fai conto che questa cosa qua significa 800 milioni di euro che tutti gli anni girano tra contributi che le aziende private devono dare nel momento in cui producono un bene che ha un costo ambientale per il suo diciamo smaltimento o riutilizzo, e i soldi derivanti dalla vendita di questi materiali che possono essere avviati appunto al riciclo. Ecco, di questa somma generale soltanto un terzo ritorna ai comuni e alle comunità, cioè a quei protagonisti che hanno reso possibile questa, diciamo, questa parte economica. Quello che noi chiediamo come Associazione dei Comuni Virtuosi, abbiamo prodotto un dossier e stiamo facendo un lavoro di coinvolgimento a livello locale di centinaia di comunità, è che a parità di risorse una maggiore quota ritorni ai comuni, e soprattutto ritorni a quei comuni virtuosi, cioè chi fa meglio la raccolta differenziata, chi riesce a fare di più a favore dell'ambiente, certo, venga premiato e venga trattato. È il tema degli incentivi, che dovrebbe essere una parolina magica usata più spesso nell'ambito fiscale, ma non solo. Dunque non soltanto buone pratiche, ma anche un punto di vista così critico in questa vicenda, per esempio degli imballaggi. L'Associazione dei Comuni Virtuosi, ricordo l'appuntamento per la scuola di altra amministrazione a Como il prossimo weekend. Grazie Marco Boschini. Grazie mille. A presto. Adesso invece noi ci dobbiamo fermare per il traffico, torniamo tra pochissimo, vi racconteremo anche una bella storia tutta pugliese, tutta barese, poi forse chissà se abbiamo anche Carlo Gabardini, che è la Blogfest, vediamo se i blog vanno ancora di moda. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, si può fare, siamo alla Fiera del Levante di Bari, e allora oggi eccolo un bel esempio positivo di come si possa fare impresa anche al sud, in una zona poco sviluppata. L'importante è avere l'idea geniale. È il caso della Technical Director, un'azienda di Gravina, in provincia di Bari, creata da Nicola Lavenuta e Maria Rita Costanza, qualche anno fa, nel 2000 per l'esattezza. Un'impresa del settore informatico, ha un fatturato di 2 milioni di euro l'anno, 40 dipendenti, età media bassa, 30 anni, tutte belle notizie. Nel 2012 hanno assunto altre 12 persone, tutte nate da un'idea innovativa. Ce la racconta al microfono di Alessandra Tedesco, che ha girato per i padiglioni della fiera, Nicola Lavenuta. Sentiamo. Il nostro obiettivo era, prima di tutto, partivamo da un'idea che non sono gli uomini, non è il territorio che fa gli uomini, ma sono gli uomini che fanno il territorio. Per cui partivamo dalla Murgia Barese e siamo partiti con un'idea brillante, quella di poter utilizzare gli SMS nel mondo aziendale. Parlo del 1999, quando gli SMS si utilizzavano per dire butta la pasta o ti amo. Invece noi li avevamo portati o avvisami che la carta di credito è stata utilizzata, oppure c'è una promozione pubblicitaria. La svolta, diciamo, dal punto di vista imprenditoriale avviene quando incontrate TIM, all'epoca TIM, poi Telecom. Che cosa succede? Beh, succede che entriamo al cospetto di una delle principali aziende italiane nel mondo delle telecomunicazioni, per cui abbiamo la grande possibilità di accettare la sfida con una grande azienda per mettere a disposizione una fucina di idee e di sistemi integrati e innovazione tecnologica da portare ai milioni di clienti Telecom in quel caso. Il vostro cavallo di battaglia è un sistema di monitoraggio, di controllo dei mezzi aziendali, definiamolo così in parole semplici. In che cosa consiste? Allora, il sistema è un sistema di localizzazione satellitare, noi lo chiamiamo localizza, ovvero dai una mano alle aziende a prendere le decisioni. Noi diciamo in generale oggi diamo una mano alle aziende a efficientare l'azienda, a decidere, visto il momento storico, un mezzo che gira significa consumo e quindi è necessario sapere come si muove e che cosa fa. Per gli SMS aziendali siete stati i primi in Italia a fornire questo tipo di servizio, per il monitoraggio dei mezzi i primi nel sud, i secondi in Italia. Insomma, qual è stato il vostro segreto? Noi diciamo nulla è impossibile a meno che non pensi che lo sia. Partivamo sicuramente dal sud, un po' svantaggiati, non per le idee, non per il clima, ma solo perché non ci sono le infrastrutture. Noi siamo nella Murgia Barese, esattamente a Gravina in Puglia, in provincia di Bari, dove vi invito a venirci a trovare. Però per andare a prendere l'aereo dobbiamo andare a Bari, e per andare nei centri di importanza tecnologica dobbiamo andare a Milano, significa andare a 1000 chilometri. Negli ultimi anni come azienda avete anche assunto e assunto tanto, insomma adesso ci sono 40 dipendenti nella vostra azienda. Insomma, è possibile fare impresa al sud e in che modo va fatta per avere successo? Allora, il successo parte dalla voglia di far crescere un territorio. Noi, come dicevamo, siamo sulla Murgia Barese e sappiamo che ci sono tanti ragazzi che studiano al Politecnico di Bari, all'Università di Bari, un po' come abbiamo fatto noi prima, e ogni volta si sente c'è questa storia che tutti devono andare al nord, ma fondamentalmente, o all'estero, fondamentalmente ci siamo chiesti, ma un imprenditore del nord, con tanto di rispetto per i colleghi imprenditori, che cosa ti danno? Non ti danno altro che, tra virgolette, la sicurezza di uno stipendio al mese e poi tu ci metti le tue idee. Noi abbiamo fatto l'altro che la stessa cosa. Sicuramente, non venendo noi da famiglie di imprenditori, siamo andati in banca a chiedere un prestito. Ricordo che era il 2000, abbiamo chiesto, c'erano ancora le lire, abbiamo chiesto 30 milioni di lire in prestito. E quindi a questo punto ci siamo trovati nelle condizioni di trovare gli amici, i figli degli amici che avevano bisogno di un lavoro specializzato. Abbiamo assunto perché comunque la richiesta di tecnologia ce n'è tanta e quindi di conseguenza siamo convinti addirittura che l'informatica, l'ICT, le tecnologie possono essere una leva di svolta del nostro territorio, della Puglia. La Puglia, che è una regione che spinge sull'innovazione tecnologica, noi riteniamo di essere un piccolo esempio. Every day, every night, every second of my life. Vabbè, Carlo Gabardini, ci sei? Ci sono. Ti piace il tappeto musicale? Pensa, siamo andati a ripescare i Gazzosa. Ma che bello! Non lo so, perché qua qualcuno faceva dei gesti un po' strani su questa base musicale. Non so, Filippo in regia, non so se gli amava particolarmente. Vabbè, Carlo Gabardini, protagonista quest'estate, attore e autore insieme a me di Si può fare su Radio 24 ad agosto, tutte le sere, ve lo ricordate cari ascoltatori, e lui alla Blogfest. Carlo, ma i blog, cioè, vanno ancora di moda, cioè è bello, no, il fatto che si scriva tanto, questa è una cosa bella, lo dice anche il filosofo Bolelli, è l'epoca in cui si scrive di più tra Twitter, blog, eccetera, ma c'è qualcuno che legge? Questa potrebbe essere la domanda, te la giro lì che... Tu che sei protagonista della Blogfest. Sì, allora innanzitutto c'è da dire una cosa, che non è solamente il blog, nel senso che la Blogfest è il raduno nazionale, diciamo, di chi usa la rete. Si chiamò Blogfest le prime volte perché in quel momento i blog erano un po' la novità, adesso di novità ce n'è tantissime altre e quindi è rimasto il nome Blogfest, non si occupa di tutta la rete. Tu per esempio sei profondamente incomprensibili, l'unica cosa che si può, io a molte cose che sento annuisco senza capire, ovviamente, perché se lo fai tu, allora pensa cosa potrebbe succedere se ci fossi io, che ci capisco ancora di meno. Tu però sei invece lì, cosa sei, in qualità di sei candidato tra l'altro a un premio su Twitter, che cos'è? Sono candidato a due Macchia Nera Italian Award. Ma con nessunissima possibilità di vincere, perché diciamo sono candidato come miglior personaggio. Dimmi. Sì. No, non ho detto nulla. Diciamo, i miei competitor più piccoli come miglior personaggio nelle 10 nomination sono tipo Fiorello e Papa Francesco, quindi non credo che porterò a casa un risultato. Vabbè, a parte questo, ma perché Papa Francesco? Perché tanto le nomination sono aperte, hanno votato 140.000 persone e queste 140.000 persone hanno deciso le nomination. E tra le nomination c'è chi ha votato Papa Francesco e quindi lui è in nomination. Non pensate che schizofrenia però, che c'è in Italia attualmente tra i cittadini italiani, la distanza siderale tra Papa Francesco e Gabardini, cioè, no, ma è una cosa forte. È un po' quello. Senti, ma tu ce l'hai il blog? No, tu non te ne frega nulla, tu sei su Twitter. No, io ho molto Twitter in realtà. Poi sono qui addirittura anche, visto che siamo poi su Radio 24, sono qui anche perché alle 2 c'è un panel, come si dice qui, su Bitcoin, Sardex e tutte le monete virtuali, ed è moderato da Paolo Landi, e durante questo panel noi batteremo una nuova moneta che è il Gabardino. Vabbè, ma qui stiamo veramente esagerando, c'è il Gabardino. Ma ripigliatevi, bevete meno a pranzo, secondo me, perché... Ma è una roba che abbiamo fatto mesi fa, che abbiamo tipo fondato con 5 euro questa moneta. Però oggi la abbassiamo proprio nel senso che sarà una moneta di stoffa, perché sì, abbiamo un paio proprio di pantaloni di Gabardine che tagliamo a pezzettini. Vabbè, ma qui stiamo rasentando l'assurdo. Carlo, fai una cosa però, siccome il tema mi interessa, io voglio capire se c'è qualcuno che legge, oltre a scrivere su Twitter, sui blog, cioè, tu raccogli un po' di opinioni, tanto poi ci risentiamo, si può fare nelle prossime puntate, anche nel nuovo palinsesto, e così tiriamo le fila. Intanto grazie per questo collegamento. Noi siamo in chiusurissima, dobbiamo salutare tutti: Filippo Aureggi in regia qua da Bari, Laura Vanossi in assistenza in redazione, Giorgio De Luca da Milano in regia, non so chi c'era, a dire la verità, da me Alessio Maurizi, l'augurio di una buona giornata, buon weekend, ma ci risentiamo domani a mezzogiorno con l'altra puntata di Si può fare da Bari. Un salutone, un abbraccio a tutti. Si può fare, cronache da un paese migliore.